Capricorno, gennaio. I Capricorni inizieranno l'anno con un Giove nel quarto campo. Potrete concentrarvi con soddisfazione sulle tematiche legate alla casa o alla famiglia d'origine. Vi sentirete comunque accolti e accettati dalle persone a voi care. Il 3, Venere entrerà in acquario, aiutandovi a recuperare le vostre energie, sia dal punto di vista fisico che materiale. Il 9 di gennaio la luna nera entrerà in leone. Limitate gli spostamenti non necessari e vagliate bene eventuali nuove conoscenze. Dal 18, Mercurio riprenderà il moto diretto dal vostro segno, vi sentirete efficaci nel modo di comunicare e riceverete dei feedback positivi dai vostri colleghi e eventualmente dipendenti. Dal 22 Urano riprenderà il moto diretto dal Toro, riattivando le vostre energie e la vostra creatività. Febbraio, il 4, il Sole che effettuerà una quadratura dall'Acquario con Urano in Toro potrebbe leggermente destabilizzarvi. Attendete qualche giorno per le decisioni importanti. Il 10, Mercurio congiunto a Plutone, potrà darvi intuizioni molto interessanti, ma farvi sentire il peso di alcune verità che potreste scoprire in modo inatteso. Dall'11, Mercurio in Acquario potrà aiutarvi a stabilizzarvi e acquisire dei risultati che avevate impostato nel mese precedente. Dal 20, Venere in Ariete vi darà il piacere di vivere la quotidianità nelle pareti domestiche. Potrete ammorbidire i rapporti con le persone di famiglia. Sempre dal 20 di febbraio, Giove sosterrà le faccende domestiche dei nati nella seconda decade del Capricorno. Sarà una fase propizia per progetti e chiarimenti in famiglia. Marzo, mese molto importante. Dal 7 del mese, Saturno passerà nel vostro terzo campo. Dovrete iniziare a mettere dei paletti nelle amicizie, alleggerite di responsabilità e se possibile cercate di delegare. Dal 23 Plutone finalmente uscirà dal vostro segno, facendovi respirare per qualche mese. Le dinamiche di potere, illuminate da Plutone, avranno come scenario la stabilità e le economie. Vi sentirete comunque alleggeriti e meno presi di mira dal destino. Dal 25 Marte entrerà in Cancro, potrete chiarire delle faccende con persone per voi importanti e riuscirete a farvi rispettare senza dover fare particolari sforzi. Aprile, dal 3 del mese, Mercurio entrerà in Toro, effettuando un trigono al vostro ascendente. Sarà un buon momento per voi per parlare ai vostri cari e in particolare ai figli, per chi di voi è genitore. Dal 5 di aprile Giove inizierà a favorire i nati nella terza decade del segno. Se dovrete ristrutturare o dedicarvi alla casa, sarà un buon momento per prendere in mano le carte e attivare i progetti. Dall'11 Venere in Gemelli vi renderà gentili e garbati nei modi, soprattutto in contesti lavorativi. Vi sentirete anche orientati a prendervi cura di voi stessi. Concedetevi il tempo necessario. A partire dal 20 fate attenzione, vi sarà una delicata eclissi in Toro. Se siete dei genitori, tenete d'occhio i vostri figli e cercate di trovare il giusto equilibrio nelle vostre relazioni passionali. È una fase in cui tirare i remi in barca e, dove necessario, mettersi anche in discussione. Maggio, dal 7 Venere entrerà nel vostro settimo campo, aiutandovi ad essere diplomatici e favorendo le nuove conoscenze e, se possibile, anche gli incontri sentimentali. Dal 15 Mercurio in Toro riprende il moto diretto, sarete fluidi nell'eloquio e aperti al prossimo. Dal 16 del mese Giove entrerà in Toro, effettuando un bel trigono di cui favoriranno in particolare i nati nella prima decade. Passione e creatività ravviveranno la vostra vita. Dal 20 Marte in Leone vi farà tagliare i rami secchi, soprattutto nel campo delle amicizie. Potreste essere un po' troppo diretti, cercate di trovare la giusta mediazione. Dal 21 il Sole entrerà in Gemelli, si potranno svelare intrighi nel lavoro e aprire nuove prospettive per la cura del vostro corpo. Giugno. Venere entrerà in Leone dal 5 del mese, stimolando la passione e i progetti economici. Dal 21, solstizio d'estate, il Sole entra nella vostra settima casa, vi permetterà di chiarirvi con le persone care e di essere da guida per coloro che amate. Intorno al 10 di giugno, Plutone rientrerà in Capricorno, dandovi l'ultima opportunità per lavorare sul vostro potere personale. Sarà un'occasione unica, anche se a momenti potreste percepire di nuovo un leggero appesantimento, in particolare per i nati nella terza decade. Mercurio raggiungerà la vostra settima casa il 27. Potrete fare nuovi incontri ed esprimervi in modo carismatico. Luglio, Marte entrerà in Vergine il 10, effettuando un trigono dalla vostra nona casa. Vi sentirete dinamici e desiderose di iniziare nuovi progetti o spostamenti costruttivi. Mercurio entrerà in Leone l'11 e questo vi darà il giusto intuito nelle faccende economiche e troverete le parole giuste per la passione. Dal 12 l'entrata nel nodo nord in Ariete vi farà vedere gli altri, con occhio diverso. In particolar modo le persone a voi care. Riuscirete a vedere degli aspetti che non sono comprensibili solo con la mente razionale, ma che necessitano del concetto di destino per essere spiegati. Dal 28, Mercurio in Vergine vi renderà mobili e orientati agli spostamenti, magari per motivi di lavoro, ma vi sentirete proiettati in movimenti dinamici. Agosto, il Sole il 23 entrerà in Vergine e avrete chiarezza di eventi lontani o riceverete notizie di conoscenti o parenti che vivono altrove. Dal 23, Mercurio, sempre dalla Vergine, inizierà il moto retrogrado, portandovi a riflettere su faccende di natura filosofica o interiore. Il 25, Marte in opposizione a Nettuno in Pesci, potrà dare qualche momento di incertezza. Dal 27, con l'entrata di Marte in Bilancia, vi sentirete finalmente sostenuti nelle faccende lavorative e rispettati come meritate dai vostri collaboratori. Settembre, dal 4, Venere in Leone riprende il moto diretto, facendovi di nuovo sentire vivo e aperto ai sentimenti. Dal 15, Mercurio riprenderà anch'esso il moto diretto, facendovi sentire dinamici e costruttivi. Il 23, il Sole entrerà in Bilancia, portando chiarezza nei vostri ambienti di lavoro ed aiutandovi a farvi apprezzare da colleghi e subalterni. Ottobre, Mercurio entrerà nel vostro decimo campo dal 5 del mese, sostenendovi nel lavoro e nella vostra realizzazione. Marte entrerà in Scorpione, portandovi ad essere chiari ed espliciti con conoscenti ed amici. Cercate di evitare inutili tensioni. Il 22, Mercurio entrerà in Scorpione, rendendovi ulteriormente diretti. Il 28, l'eclissi totale di Luna tra Scorpione e Toro vi renderà obiettivi e chiari con chi vi circonda, ma non tutti potrebbero apprezzarlo. Fate attenzione alle reazioni altrui, tenete d'occhio i figli per chi è genitore. Novembre, Venere entrerà in Bilancia l'8 del mese, ammorbidendo un po' i toni, sia nell'ambiente di lavoro che in famiglia. Mercurio entrerà in Sagittario il 10, aiutandovi a fare il punto della situazione e a guardarvi dentro con obiettività e onestà. Dal 24 anche Marte in Sagittario vi porterà a chiudere con amici non più coerenti nel loro comportamento e a comprendere con coraggio le parti di voi che necessitano di essere trasformate. Dicembre, Mercurio entrerà nel vostro segno a partire dal primo del mese. Vi riuscirete ad esprimere al meglio delle vostre potenzialità, magari in modo concreto e sintetico, ma efficace. Venere entrerà in Scorpione il 4, aumentando il vostro carisma e l'apprezzamento da parte delle persone che vi circondano. Il 23, Mercurio lascerà il vostro segno, tornando in Sagittario e portandovi a recuperare qualche situazione o persona che avevate lasciato da parte. Dal 29, Venere nel vostro dodicesimo campo vi porterà ad effettuare una riflessione profonda sulla vera natura dell'amore. Sarà un anno speciale per voi Capricorni, in particolare da marzo a giugno sperimenterete una nuova leggerezza. Lo spostamento di Plutone nell'Acquario potrà darvi un senso di ebbrezza sul momento, ma riuscirete anche a comprendere quanto questo severo amico vi abbia potuto portare una crescita e una presa di consapevolezza profonda. Non preoccupatevi, torna. Difatti, da giugno vi sarà l'ultima opportunità per comprendere la vera natura spirituale del potere, che è il lasciare andare. Lasciare andare il bisogno di controllo, il bisogno di potere, il bisogno di fermare il tempo. Nessuno può essere realmente controllato, come il tempo non può essere fermato. Acquisiti questi concetti, Plutone tornerà ad essere amico.